Ok, Malaloy, Malaloy de Radio XX, Ferdino e Will. Ok, ascolta Radio XXX, martedì sera siamo a Bino e Will. Malaloy baby sul beat, ma sicuro che vi manda il titolo. Ascolta Radio XXX, martedì sera siamo a Bino e Will. Malaloy baby sul beat, ma sicuro che vi manda il titolo. Amo la musica che bomba, le tipe che pompano. Programma di Bino e di Will, pompalo. E se vuoi ci di, molestamente parlando, direi lo che cazzo.